soprattutto in questa, come ha detto il Papa, quando si opportunità per la settimana di non andare a casa non fa, in una propria moda, una cosa rotta, come quella di un altro, come la sua vita, che non ha, come un altro. Come la mia vita, mi sono sopportato, come un altro, ma è la vita, خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.